io vorrei che migliaia di farfalle colorassero l'aria intorno a me. Poi vorrei vederle tutte quante come un vestito posarsi su di te. Così vorrei, così, così, sognarti così. Quando la festa comincerà, tu sarai regina, tutta la gente si fermerà a guardarti stupita. Per i miei occhi tu splenderai, bella come il sole. Infiniti pori del cuore, infinita felicità. Quando penso che tu sei per me, per sempre. Poi come fa il vento con le rose, vorrei spogliarti soffiando su di te. Così vorrei, così, così, amarti così. Quando la festa poi finirà, torneremo a terra, tutta la gente si ricorderà d'aver visto una stella. Per i miei occhi tu splenderai, bella come il sole. Infinita felicità. Quando penso che tu sei per me, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre.